Radio Risacca. Voci dal quartiere. Radio Risacca. Voci dal quartiere. Radio Risacca. Voci dal quartiere. Radio Risacca. Voci dal quartiere. Un po' disturbato nel suo audio. Riprovi. E ciao a tutti e tutte di Radio Risacca. Come va in questo bel sabato freddoloso? Tutto bene, noi tutto bene, piedi caldi, cuore caldo. Oggi sostituirò Lele ed Eva e ho deciso di fare una selezione francese pre-San Valentino. E adesso ci sentiamo una bella canzoncina di Blondie, Sunday Girl. Versione francese. Da Blondie andiamo a Lio Amoro Solitaire. Plastique pour Ragazze, ce l'abbiamo l'ovatta per la mattina? C'est la ouate de toutes les matières. C'est la ouate qu'elle detto che posso anche sfumare le canzoni. Quindi mettiamo un bel Franco Battiato, chanson égocentrique. La prossima canzone che sentiremo è Amor Plastique. Dans mon esprit tout divin, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant. Aime-moi jusqu'à ce que les roses fanent, que nos poitrine, perdu dans l'avalanche de mon cœur égaré. Qui es-tu? Où es-tu? Par les pleurs, par les rires de ton ombre effarée, je résonne en baiser. Dans mon esprit tout divers, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau, une fleur. Lancinant de nos corps dans le sombre, animé lentement. Et la nuit, quand tout descend, je te regarde danser. Tormentone degli anni 80, Vanessa Paradis, Je le taxi, però una versione un po' remix perché è un po' noiosa. Ragazzi e ragazze di Radio Risacca, è arrivato Frank Sinatra! Evviva gli amici, evviva le amiche, ci stanno tutti venendo a trovare qui. E adesso ci sentiamo Et tu pluvio di Dirty During. Thank you. E dopo Nick La Police, Le Banes Blonde con non mi ricordo come si chiama. Ciao! Freddo, sole che sbuca tra le foglie, che bello freddo. Pronti, pronti per una bella doccia di marmellata. Let's go. e dopo Lady Marmalade metterò una bella canzone che ho conosciuto grazie al colpo di stato in Birmania. Un insegnante di aerobica che faceva lezioni online con questa bella canzone, Hampum Bang Jago. Yes, this is Ian Storm. Ian Storm. Hampum Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom boom boom boom boom. Hampum Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Kevin Rutter. Ampun Bang Jago. Kalian merasa tinggi, biar ku merendah. Kalian merasa hebat, biar ku yang lemah. Merasa paling terbaik, tapi cara kalian licik. Maka kita kaget skill otodidak, mar bikin diri pandai. Jangan senang dulu, semua tinggal tunggu waktu. Ada yang manis, tapi itu bukan susu. Anak baru haus pujian, datang seolah dia jagoan. Maaf jodang, sorry jodang, ampun Bang Jago. Sento, sì. Ah, a causa dei bambini. Yell.